Pagine per il futuro. Bentrovati a un nuovo appuntamento di Pagine per il futuro. Il progetto del Piccolo Teatro di Milano e Radio 24 che propone in riduzione radiofonica un classico della letteratura, drammatizzato da attori del piccolo e commentato da ospiti di volta in volta invitati dal mondo della cultura, della politica e dell'economia. L'ospite di oggi è Alberto Meomartini, presidente di Asso Lombarda, che ha scelto due libri per il suo viaggio fra sentimenti nella letteratura del passato. Padri e figli di Ivan Turgenev e Peter Pan di James Barry. E così, Pan, tutto questo è opera tua? Sì, uncino, è tutta opera mia. Cucciolo superbo e insolente, preparati a morire. Bada te, uomo cupo e sinistro. E si lanciarono l'uno contro l'altro. Per un momento lo scontro fu pari. Peter era uno spadaccino abilissimo e pareva fulmineo. Ogni tanto a una finta faceva seguire una stoccata che superava la difesa dell'avversario. Gli era un po' di svantaggio la piccola statura, per cui non riusciva a raggiungere uncino per colpirlo. Il capitano non era meno abile. Non avendo però i polsi agili e snodati, doveva tenerlo a bada con l'impeto degli assalti. E allora pensò di sferrare l'assalto decisivo mediante l'uncino di ferro. Ma Peter gli sgusciò di sotto e allungandogli una botta fortissima lo trafissa alle costole e... alla vista del proprio sangue, uncino lasciò cadere la spada e fu alla mercé di Peter. Addosso! Gridarono tutti i bambini. Peter, con nobile gesto, invitò l'avversario a recuperare la spada. Uncino la raccolse fulmineo. Pan, chi o cosa sei tu? Io sono la giovinezza. Io sono la gioia. Uncino ora combatteva come una macchina umana creata per la distruzione. Ogni fendente della sua terribile spada avrebbe tagliato in due tutti gli uomini o i ragazzi che gli si fossero parati davanti. Ma Peter gli volteggiava attorno, come se lo stesso vento, smosso dai colpi, lo soffiasse fuori dalla zona pericolosa. Poi vi rientrava di nuovo e colpiva a sua volta. Uncino abbandonò il combattimento e si precipitò nella polveriera ad appiccarvi il fuoco. Tra due minuti, la Jolly Roger salterà in aria! Peter uscì dalla polveriera con la bomba in mano e tranquillamente la gettò in mare. L'ora di uncino era arrivata. I ragazzi gli svolazzavano attorno, canzonandolo beffardi. Lui, barcollando sul ponte, cercava invano di colpirli, ma il suo pensiero, a poco, si allontanava da loro, scivolava sui campi di gioco di tanti anni prima, si vedeva lodato a scuola per un buon lavoro, assisteva alla partita di una squadra famosa, le sue scarpe erano lucide, il suo panciotto ben stirato, la cravatta annodata con cura e le calze non facevano una grinza. Giacomo Uncino, ormai hai minuti contati. Vedendo Peter avanzare lentamente in aria sopra di lui con la spada sguainata, Uncino balzò verso la murata per buttarsi in mare. Ignorava che il coccodrillo era lì ad aspettarlo. Per questo abbiamo fermato l'orologio. Lo abbiamo fatto di proposito, perché a Uncino fosse risparmiata la terribile rivelazione. È da parte nostra un piccolo segno di rispetto per lui, almeno alla fine. Così morì Giacomo Uncino. Grazie a Leonardo De Colle e Gabriele Falsetta, attori del Piccolo Teatro, che hanno letto magistralmente queste prime pagine scelte di Peter Pan. Il tema è la memoria e l'oblio. I libri scelti, eccezionalmente due, Peter Pan, per l'appunto, e Padri e figli di Turgenev. Alberto Meomartini, Asso Lombarda, perché la scelta di questi due libri? Beh, quando è un tema la memoria e l'oblio che mi affascina molto in questo periodo, insomma, che io vivo come il cammino su un filo teso, ecco, fra memoria che guardi in avanti e Mori che guardi indietro. E questi due libri nel mio cuore sono due libri che vorrei che molti rileggessero, appunto lasciandolo come invito ai lettori. Poi sono libri che affrontano in modi totalmente diversi il tema del rapporto fra presente, passato e futuro. Mi sembra un tema molto, molto attuale. In questa, per esempio, bellissima lettura c'è tutto quello che è il tema dell'infanzia, perché c'è la fantasia, la paura, anche diciamo c'è la violenza delle favole, ci sono gli animali, ci sono, ed è divertente il fatto che un libro dedicato alla figura di qualcuno che non vuole avere una memoria per il futuro, Peter Pan, sia scandito dal suono dell'orologio che scandisce il tempo, dai ricordi di Uncino e dalla terribile bellezza violenta di questa scena, che ricorda che neppure l'infanzia è fatta soltanto di cose piacevoli. Ecco, in questi due libri c'è tutto, c'è il cambiamento sociale. Non dimentichiamo che questo libro è scritto all'inizio del secolo, 1902. E non è un libro per l'infanzia. Non è un solo libro per l'infanzia. Poi noi tutti siamo tutti Walt Disneyizzati, cioè ne abbiamo visto la versione cinematografica. Guardate che nello stesso anno, un anno prima, si scrive Cuore di tenebra di Conrad, cioè il secolo inizia con la paura epocale o con la prospettiva epocale della fine del millennio, nuovo millennio. E è un libro che ha tantissimi significati, come tutti i libri che si rileggono, poi a seconda del tuo stato d'animo, dell'età, trovi dei grandi significati, ecco, perché noi oggi viviamo un periodo in cui molti dei nostri ragazzi non è che non vogliono un futuro, però aspettano a vivere. Cioè la sindrome di Peter Pan di non voler affrontare le difficoltà del futuro è una sindrome molto, molto presente in molti dei nostri giovani. La tendenza a stare sempre nelle zone di conforto, l'università, la scuola e la famiglia sono una grande sindrome di Peter Pan. Tanto che qualcuno li ha anche definiti bamboccioni. Ma io trovo che se c'era una cosa che non doveva rimangiarsi era quella, ma lo dico scherzando polemicamente, no, cioè nel senso che certamente, noi riscontriamo ovunque, bisogna essere anche molto sinceri, in una generazione che è cresciuta con tanti, certamente in generale ovviamente, con tanti agi, però la difficoltà di affrontare il futuro in un momento difficile c'è. Questo non vuol dire che siano bamboccioni, vuol dire che certe volte noi facciamo in modo che si comportino da bamboccioni. Forse potrebbe aiutare la lettura di Padri e Figli di Turgenev. Certamente anche la lettura di Padri e Figli. Dunque, incamerare un po' di rabbia. Sì, incamerare un po' di rabbia. Il battibecco venne la stessa sera quando si raccolsero per prendere il tè. Pavel Petrovich entrò nel salotto già pronto alla battaglia, irritato e deciso. Non attendeva che il pretesto per scagliarsi sul nemico e il pretesto non tardò a presentarsi. Bazarov, il giovane nichilista ospite del nipote Arkady, in generale parlava poco in presenza dei vecchi, come egli chiamava Pavel e suo fratello Nikolai. Quella sera, poi, non si sentiva d'umore e tracannava una tazza sull'altra in silenzio. Pavel Petrovich bruciava tutto di impazienza, ma il suo desiderio alla fine fu soddisfatto. Cadde il discorso su uno dei proprietari del vicinato. È un parruccone, un aristocraticaccio, osservò tranquillamente Bazarov. Permettetemi di domandarvi, cominciò Pavel Petrovich e le labbra gli tremavano, se a vostro modo di vedere le parole aristocratico e parruccone significano lo stesso. Io ho detto aristocraticaccio. Sia pure. Ma io suppongo che voi mettiate in un sol mazzo gli aristocraticacci e gli aristocratici. Ma credo mio dovere dichiararvi che io non sono del vostro avviso. Io sono conosciuto da tutti come liberale e amante del progresso, ma è appunto per questo che stimo l'aristocrazia, la vera aristocrazia. Ricordatevi, caro signore, dell'aristocrazia inglese. Non cede un iota dei suoi diritti, ma rispetta del pari i diritti degli altri, esige ciò che le si deve e proprio perciò e gelosa esecutrice di ciò che essa deve agli altri. L'aristocrazia è stata quella che ha dato la libertà all'Inghilterra. Sì, vecchia canzone, l'abbiamo sentita cantare su tutti i toni, ma che volete provare con questo? Io voglio provare con questo, caro signore, che senza la coscienza della propria dignità, senza stima per se stessi, e questi sentimenti sono radicati nell'aristocrazia, non ci può essere fondamento sicuro al bien public, all'edificio sociale. La personalità, caro signore, ecco quello che importa soprattutto, la personalità umana deve essere salda come una roccia, perché tutto si erge su questa base. Oh, io mi avvedo perfettamente, per esempio, che voi vi compiacete di trovare ridicole le mie abitudini, il mio modo di vestire, perfino la cura che ho della mia persona, ma tutto ciò, sappiatelo, deriva dal senso del rispetto personale, da un senso di dovere. L'aristocrazia è un principio, e senza principi, al giorno d'oggi, può vivere solo la gente immorale o sciocca. Aristocrazia, liberalismo, progresso, principi, quante parole esotiche e inutili. Ad un vero russo non servono. E che cosa gli serve, secondo voi? No, scusatemi, ma la logica della storia esige... Che ne abbiamo a fare di questa logica? Ne facciamo a meno e si vive lo stesso. Come? Voi non ricorrete mica alla logica per mettervi in bocca un pezzo di pane quando avete fame? Che sugo ci trovate in queste astrazioni? No, io non vi capisco più, no. Voi insultate il popolo russo. Io non intendo come sia possibile non riconoscere dei principi, delle norme. Ehi, in forza di che dunque agite voi? Noi agiamo in forza di ciò che riconosciamo utile. E ai giorni nostri la cosa più utile di tutte è la negazione, noi neghiamo. Tutto? Tutto. Come? Non solo l'arte, la poesia? Tutto. Voi negate tutto? Tutto. Voi distruggete tutto? Sì, tutto. Pagine per il futuro. Continuiamo nell'ascolto dell'incontro organizzato da Radio 24 e il Piccolo Teatro di Milano. La memoria e l'oblio sono al centro della conversazione con il presidente di Asso Lombarda, Alberto Meomartini. Voi nichilisti! Vi figurate che la vostra dottrina sia una novità? Il materialismo che voi predicate non viene adesso per la prima volta sulla scena. E sempre si dimostrò insussistente. In primo luogo, noi non predichiamo niente. E che fate dunque? Abbiamo cominciato dal dire che i pubblici ufficiali pigliano mance, sono infedeli, che non abbiamo né strade, né commercio, né giustizia. Sì, siete dei denunciatori. In molte delle vostre critiche convengo anch'io, ma... E poi abbiamo capito che non vale la pena di ciarlare, nient'altro che ciarlare delle nostre piaghe. Ci siamo accorti che i nostri uomini illuminati, o se preferite progrediti, non cavano un ragno da un buco, che ci rompevamo il capo con tante sciocchezze dell'arte per l'arte, della potenza creatrice incosciente, del parlamentarismo, dell'avvocatura, del diavolo che se li pigli, mentre si tratta del pane quotidiano. Noi distruggiamo perché noi siamo la forza. E la forza non ha da rendere conto. Nichilisti! Sì, vi faccio notare che il decantato sentimento di dignità personale vi tradisce. Sarebbe meglio smettere, no? Sarò d'accordo con voi quando mi avrete indicato una sola istituzione sociale o familiare che non meriti di essere completamente o inesorabilmente abolita. No, ma non una! Milioni ve ne citerei. Prendete la famiglia. La famiglia come la si trova presso la gente di campagna? Sì, credo che nel vostro interesse non vi convenga entrare nei particolari di questo argomento. Sentite, Pavel Petrovich, prendetevi 2 giorni per pensarci sopra. Sul momento non troverete niente. Passate in rassegna tutte le nostre classi, consideratele bene una a una, e noi intanto... Vi burlerete di tutto. Squarteremo delle rane. Intanto esprimiamo la solidarietà alle rane, perché le rane sono... Vabbè, questa è la cosa più importante. E forse, visto gli ultimi risultati, anche i grilli. Ma questo non mi trascina in questa... E certo è che è un... anche questo è un testo meraviglioso, che contiene poi un'altra cosa che a me piace tanto in tutti i romanzi, le incongruenze dei personaggi. Penso sempre che uno scrittore, quando scrive, a un certo punto si faccia prendere la mano dal suo personaggio, vorrebbe renderlo coerente, ma l'incoerenza è una cosa per cui il Basarov, il grande nichilista, a un certo punto dice, ma lo troviamo in altri punti del romanzo, io sono nichilista perché raccolgo la vera anima del popolo russo, il russo è capace di tutto fuorché di dimenticare il suo passato. Quindi ognuno ha le sue contraddizioni. Meno male, preso il giovane beh, meno male, fortunatamente non le sue contraddizioni. Ma io non so se qualcuno di voi ha visto un film recente di pura fantascienza, uno dei film più costosi della storia, che si chiama Oblivion. È un romanzo di fantascienza in cui tanto per... è una storia di Peter Pan moderno, vive nelle nuvole, vola attraverso le cose, e gli hanno tolto la memoria, perché il futuro è senza memoria. Questo Basarov ci dice un'altra cosa, si può cambiare dimenticando se stessi. Allora, io non, francamente non ho risposte, è chiaro che il nichilismo, c'è una cosa tremenda, già gran parte dei cambiamenti avvengono senza che i protagonisti se ne rendano conto. Pirandello dice, l'uomo da fiore in bocca, è un pezzo classico, e dice, ma se le case di Messina avessero saputo che ci sarebbe stato il terremoto, si sarebbero mosse anche loro. Le case di Messina sarebbero... In realtà assistiamo a tutte le catastrofi possibili, ai cambiamenti, senza che ce ne accorgiamo. È meglio la memoria oppure l'oblio? Ovviamente la bellezza è che non posso dare una risposta, però io penso che per fare qualsiasi gesto rivoluzionario non bisogna dimenticare la propria storia. Mi spiace che stiamo parlando di Turgenev e di Berry, cioè che sono due grandi scrittori, ma ne devo citare un altro che a questo proposito dice uno dei grandi dilemmi. Dunque, Elia Scanetti, scrittore di cultura ebraica, di lingua tedesca, ha girato il mondo, ha conosciuto i grandi artisti, a un certo punto parla di questo problema dell'identità. In una frase, è una delle poche cose che so a memoria, che dice l'uomo moderno, quindi l'uomo moderno è quello proiettato verso il futuro, ha il suo aspetto in più interessante, dice lui, in ciò che è meno personale. Si direbbe, prosegue Canetti, che abbia preso pezzi da ogni parte del mondo dimenticando di mettere se stesso. Allora, io penso che qualsiasi gesto rivoluzionario non possa prescindere dal mettere se stesso. Lo metti con una memoria negata, lo metti con una memoria vissuta, ma in ogni caso lo devi mettere con la memoria. Forse ci sono i momenti riservati alla memoria e i momenti in cui è meglio l'oblio. Ciascuno di noi ha la sua risposta, ma insisto, la bellezza meravigliosa di Peter Pan e di Padre e Figli, che sono così diversi, è che non trovi delle risposte, trovi delle contraddizioni, trovi delle illusioni, perché Peter Pan è un grande illuso, è un commovente, meraviglioso, grande illuso, che vuol vivere solo la bellezza e agisce anche la cattiveria, perché poi ha aspetti cattivi. Cioè, noi siamo abituati a vedere l'uomo come un tutt'uno, un tondo rinascimentale, non è così. E, cioè, e questi due libri dicono entrambi una cosa, a distanza di mezzo secolo, uno in un secolo che stava finendo, perché stava finendo la grande proprietà, stava finendo la frammentazione degli stati europei, insomma stava finendo tante cose, stava finendo la disintegrazione dell'Europa e stava nascendo un secolo nuovo. Questi scrittori cercano di dare una risposta razionale e ci danno quello che solo i grandi scrittori riescono a dare, cioè l'emozione. Io, vivendo questi giovani attori, leggere la memoria di libri scritti guardando al futuro, mi sono molto emozionato. Quindi voti Peter Pan? Beh, devo dire che, che a me mi sarebbe piaciuto che dopo questo colloquio Basarov fosse volato come Peter Pan. Era primavera. Wendy aveva finito di raccontare la storia e Jane dormiva già nel suo lettino. Fu allora che udì il chicchirichì. Poi la finestra si aprì, come tanti anni prima, e Peter si lasciò cadere sul pavimento. Era rimasto un bambino, mentre lei era una donna, ormai. Ciao, Wendy! Ciao, Peter, rispose lei con voce soffocata. Dov'è Gianni? Gianni non è qui ora, balbettò lei. È Michele che dorme? Sì, rispose Wendy, sentendosi sleale tanto verso Jane che verso Peter, ma si corresse in fretta. No, quello non è Michele. Ah, evviva, ce n'è uno nuovo, bambino o bambina? Peter, continuò Wendy a fatica. Tu ti aspetti che io voli via con te? Da tanto tempo sono cresciuta. Mi avevi promesso di non crescere. Non ho potuto farne a meno. La bambina, addormentata in quel letto, è mia figlia. Peter sedette sul pavimento, scoppiando in lacrime. Wendy non sapeva come consolarlo e corse fuori dalla stanza quasi a cercare una soluzione. E Peter continuò a piangere finché d'un tratto i suoi singhiozzi svegliarono Jane. Bambino, perché piangi? Peter balzò in piedi e le fece un inchino. E anche lei si inchinò nel suo letto. Il mio nome è Peter Pan. Lo so, io ti aspettavo. Quando Wendy rientrò cauta nella camera, trovò Peter seduto in fondo al letto che lanciava orgogliosamente il suo chicchirichì e Jane in camicia da notte che volava nella stanza estasiata. Addio! Gridò Peter a Wendy, si librò in aria e l'audace Jane gli balzò dietro. Wendy si precipitò alla finestra gridando «No! No!» È soltanto per le pulizie di primavera, mamma. Wendy sospirò. Se solo potessi venire, anche io con voi. Il nostro ultimo sguardo vede Wendy alla finestra mentre osserva i due bambini che si allontanano nel firmamento finché non diventano piccoli come stelle. E così avverrà sempre. Finché i bambini saranno spensierati, innocenti e crudeli. Padri e figli di Ivan Turgenev e Peter Pan di James Barry. Intervista ad Alberto Meo Martini di Fabio Tamburini. Voci di Leonardo De Colle e Gabriele Falsetta. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna la settimana prossima.